Bene, vi do il benvenuto a tutti quanti voi, signore e signori, grazie di essere numerosi a questa iniziativa che vede come ospiti appunto questa sera il dottor Marco Brando e il dottor Hannes Obermeier. È un'iniziativa che è stata così suggerita appunto dal collega Hannes Obermeier, un consulente scientifico dei musei provinciali, che come sapete è uno storico che si occupa di storia non solo locale e non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale. E grazie alla sua conoscenza diretta con Marco Brando, che è stato giornalista per l'Unità per parecchi anni, ha scritto anche numerosi libri, non solo di carattere di reportage ma anche di interesse storico, si è concentrato sulla particolare e interessantissima figura di Federico II, che questa sera ci illustrerà. Abbiamo alle nostre spalle, alle mie spalle, appunto, già un'anticipazione iconografica di alcune deliziose miniature che ha riprodotto. Non mi dilungo ancora, vi ringrazio ancora i nostri ospiti e soprattutto vi invito anche a leggere il libro, che è sia reperibile in biblioteca come anche è acquistabile, e come dicevo prima abbiamo la delegata. Che ha l'alibi perché insegna tedesco a Trento, quindi... Cioè. Quindi insomma è tutto previsto, va bene. Ne approfitto sempre per dare un'altra notizia, che è l'appuntamento di domani sera alle 17.30, sempre in questa sala, diciamo iniziamo mezz'ora prima domani, con la presentazione di una raccolta di poesie intitolata La nudità violata, e l'ospite sarà l'autrice Sara Pirri, che ricordo è stata una finalista del premio del Poetry Slam che abbiamo avuto in marzo quest'anno, il 21 per la precisione, e che è riuscita appunto a raccogliere e a stampare queste poesie, quindi se vi fa piacere una serata dedicata alla poesia con una giovane autrice, domani sera alle 17.30. Ricordo poi che chiaramente questa è la settimana dei morti e dei santi, quindi noi giovedì 31 con le 8 di sera chiudiamo, il venerdì 1, sabato 2, domenica 3 siamo chiusi, il centro Trevi è chiuso, e poi riprenderemo con tutte le attività in programma la prossima settimana, lunedì 4. Grazie e buona serata. Grazie. Grazie Valeria dell'introduzione e della presentazione. Sono einen schönen guten Abend Ihnen allen und un cordiale buonasera. Sono molto contento di poter presentare o introdurre l'amico nonché esperto Marco Brando, esperto di Federico II, e direi quasi che oggi tutto quello che avete sempre voluto sapere su Federico II ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere è il momento di chiederglielo, però pensavamo prima di fare una breve chiacchierata a due, nella quale Marco, che ci spiegherà un attimino i contenuti del suo nuovo libro L'imperatore nel suo labirinto, che magari l'immagine qui ricorre anche, riprende la stranota statua di Federico al Palazzo Reale di Napoli, fine 800, in piazza del Plebiscito, però in una versione molto pop. E il libro è una... spero che condividi, ma penso di interpretare bene il tuo... diciamo il tuo approccio è anche un approccio molto pop, nel senso che Marco, che oltre a essere un ottimo giornalista è anche un ottimo storico, ed è già il suo secondo libro su Federico peraltro, il primo si chiamava con un altrettanto titolo molto bello direi, no? Cioè lo strano caso Federico II, cioè che riprende volutamente, no, il titolo di Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, e credo che anche su Federico II lui voglia mettere in luce questa, non dico una personalità scissa, no? Cioè, ovviamente Federico, cioè, non è tanto sapere, no? Ma più che altro questi diversi strati, ovviamente i fatti storici, messi bene in luce, esplicati, però soprattutto poi la ricezione, la costruzione, il mito, cioè quelle cose che prendono spunto da qualcosa e poi acquisiscono vita propria, no? E questo è proprio il fulcro, direi, del mestiere dello storico, quello o dello storico moderno più che altro, no? Cioè, quello contemporaneo, di slegarsi ancora di più dai fatti, o partendo dai fatti vedere come sono stati letti, no? Come sono stati utilizzati, cioè l'uso politico, mitico del materiale storico. In questo Federico II di Svevia, o degli Hohenstaufen, è uno dei miti di tutti i tempi, no? C'è proprio un mito motore, un mito moteur, per utilizzare quella famosa parola, no? che Smith, no? nel 86, nel suo libro sulle origini etniche del nazionalismo, ha utilizzato, cioè quello è una fonte quasi inesauribile per dei discorsi storiografici di tutti i colori, in questo caso però anche molto legati a delle dei miti regionali o anche, diciamo, quasi nazionali che riguardano il sud d'Italia soprattutto. Però abbiamo dei risvolti anche molto interessanti nel nord Italia, dei contromiti, e su questo penso parleremo oggi un attimino. Magari prima, se posso fare una prima domanda, se ci dai, in modo molto scarno, ma due elementi base: chi era Federico II, proprio i dati storici forse più basilari, tanto per poter, sono 800 anni fa, ma inquadrarlo un attimino, no? Prima che sradichi, ce l'abbiamo fatto. Intanto grazie per l'ospitalità in questo posto molto bello. Io ho presentato un altro libro a Bolzano 12 anni fa ormai, non su Federico II di Svevia, nell'hotel città dove sono adesso, grazie a Mauro di Vieste. Allora, dopo 12 anni eccomi di nuovo qui per parlare di Federico II di Svevia. Intanto una piccola premessa su queste immagini. A me è stato chiesto se avevo delle immagini da presentare nel corso del dibattito, ovviamente non me le descrivo, ecco, questa è quella a cui si riferisce la copertina, non me le descrivo una per una, a meno che poi qualcuno sia, però è una miscellanea di immagini, forse ce n'è solo una che risale all'epoca in cui Federico II era vivo, il resto sono tutte immagini immaginate, il caso di dire, come capita con la maggior parte, insomma, dei personaggi del Medioevo, insomma, e anche di prima, in epoche successive fino ai giorni nostri. Questa per esempio è una maglietta che io ho ovviamente con Federico II, però troverete anche una serie di una carrozzeria sveva piuttosto che del vino Pura Puglie e via di questo passo, mischiate con fumetti. Ecco, questo per rappresentare, come dire, l'attualità, come l'attualità non solo quella degli accademici, anche quella popolare. Ci sono immagini, fotografie di feste, soprattutto pugliesi, e commemorazioni federiciane, ecco, per rappresentare il modo in cui un personaggio di 800 anni fa ancora oggi vive nell'immaginario collettivo, spesso magari non corrisponde come viene rappresentato alla realtà storica, però diciamo che Federico II è sicuramente uno dei personaggi più usati, riusati e abusati su questo fronte. La stessa copertina che rappresenta la statua di fine 800 che è sul Palazzo Reale di Napoli assieme a quella di altri sovrani legati alla storia della città è stata rielaborata in versione, diciamo, Andy Warhol, senza offesa per Andy, proprio per rappresentare l'utilizzo pop, ecco, diciamo così, di un personaggio del passato ai giorni nostri. Dunque brevissimamente, Federico II di Svevia è nato nel 1194 a Iesi, per caso, perché sua mamma passava di lì e ha partorito in piazza Iesi, anche perché la mamma era molto anziana per l'epoca, aveva più di 40 anni, il padre aveva una dozzina d'anni meno della mamma, però si dice che per dimostrare che non era una messa in scena, ma era veramente figlio di lei e non era un bambino preso a caso e dato in prestito, venne fatto nascere in piazza dentro una tenda dove la gente poteva passare e vedere, si è assistente proprio al parto. Questo, non ci sono documenti che testimoniano con precisione questa cosa, però insomma è andata così. Lui era il figlio di Enrico VI, anche lui imperatore del Sacro Romano Impero della Germania, eccetera, che aveva sposato Costanza d'Altavilla, l'ultima erede del regno del sud normanno. E quindi Enrico VI per primo, anche se per poco, perché poi morì abbastanza presto, quando Federico era piccolo, così anche la mamma morì 2 anni dopo, il padre un anno dopo la nascita, diventò anche re del regno del sud normanno, in quanto marito di Costanza d'Altavilla, e a sua volta Federico II di Svevia, tra le tante cose, era anche re del regno del sud ereditato dai Normanni. Federico II di Svevia era anche il nipote di Federico Barbarossa, papà di Enrico VI, ed è stato, diciamo, l'ultimo rappresentante di rilievo della casata degli Staufer, o Staufen, se vogliamo, dalla montagna su cui c'è sono le rovine del castello a Goppingen, in cui nel X secolo iniziò la casata dei duchi di Svevia, anche se lui lì non c'è mai stato, e rappresenta appunto, è uno dei 3 imperatori svevi che si sono succeduti a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Lui a un certo punto riuscì a diventare imperatore del Sacro Romano Impero perché il Papa lo appoggiò nel conflitto con Ottone IV di Brunswick, che non era più gradito al Papa. I Papi erano molto influenti allora, più di adesso, diciamo, e promise al Papa che non avrebbe mai tentato di unificare il Regno del Sud con l'Impero, invece fece il possibile per riuscirci. Fu scomunicato 2 volte per questo motivo, e anche perché non fece una crociata nei tempi utili, almeno quelli che pretendeva il Papa di turno. Fu addirittura da Innocenzo IV nel 1245, gli fu tolta la corona di imperatore, anche se allora poi c'era chi pensava che il Papa non avesse titolo per farlo, altri che invece dettero lettera al Papa. Comunque diciamo che lui in teoria negli ultimi 5 anni della sua vita è stato un ex imperatore che continuava a comportarsi da imperatore con tanta gente che pensava che lo fosse ancora. Condusse una battaglia feroce contro i comuni della Lega Lombarda, che non è la Lega Lombarda quella di Barbarossa, è un po' diversa. Riuscì anche a sconfiggerla a un certo punto. I comuni volevano più autonomia, pur riconoscendo l'autorità imperiale, lui esigeva invece che non ce l'avessero, anche perché come modello aveva il Regno del Sud ereditato dai Normanni, dove i liberi comuni non sono mai nati, proprio perché c'era uno Stato centralizzato molto forte che non lasciò mai spazio e autonomia alle città. Alla fine perse le sue battaglie contro i comuni del Nord Italia alleati con il Papa. Tra parentesi, è un mito risorgimentale, poi della Lega è imbastito, anche ripreso dalla Lega Nord Bossiana, insomma, quello secondo il quale tutti i comuni del Nord Italia erano contro l'impero. C'erano comuni che sono sempre stati, ci sono stati comuni che sono sempre stati a favore dell'impero, come Pavia, Cremona, Como, in parte Parma, soprattutto Pavia e Cremona sono sempre stati federalisti dell'impero in funzione antimilanese, che era una potenza geopolitica regionale che pretendeva di dettare legge alle città circostanti. Lui cercò di rifarsi, di riprendersi, di tornare in auge dopo l'ultima sconfitta da parte dei comuni alleati con il con il Papa, purtroppo per lui morì nel 1250 di dissenteria, come suo padre, ma all'epoca era una cosa che capitava abbastanza frequentemente. Morì a Castel Fiorentino, vicino a Foggia, oggi ci sono solo i ruderi del palazzo in cui morì. Che peraltro, se posso, sì, introdurmi un attimino, una data facilmente da ricordare, no? 1250, cioè una data comoda di morte di un imperatore che quando l'imperatore a scuola non visse 56 anni in realtà, diciamo che poi, e concludo sulla casata, diciamo, degli Svevi, il suo erede fu Corrado IV, il figlio, che però morì a sua volta di malaria, mi sembra, durante una sua campagna nel sud Italia per la riconquista, diciamo, del regno del sud. Manfredi, un altro figlio avuto da un'altra moglie, fu sconfitto dopo a sua volta dalle truppe angioine, e l'ultimo erede è stato Corradino di Svevia, che aveva pochissimi anni e fu a sua volta sconfitto e ucciso, e qui finisce la casata. Sì, per non perderci troppo diciamo, in questo labirinto, no, tu lo chiami, diciamo, ho inquadrato il personaggio genealogico, però proprio l'ultima figura che tu hai giustamente ricordato, e vedete, diciamo, questa parabola drammatica, no? Abbiamo Federico, e poi ti vorrei fare una domanda su questo proprio. Tutto lo splendore dell'impero medievale, e solo 10 anni dopo, magari dopo il culmine, dopo questa apoteosi, lo sbriciolarsi della casata, anche della costruzione politica che sta dietro. Ma questo Corradino, è qui forse un breve taglio genealogico ci vuole, ha un collegamento forte con la nostra terra, perché peraltro è stato anche ricordato, ho visto nell'annuncio, no? Federico II e Bolzano, diciamo che ce lo vuoi magari ricordare un attimino, Corradino, Elisabetta di Wittelsbach? E cos'è? Io non vorrei togliere, perché lui è il massimo esperto diciamo che la Val d'Adige ovviamente è stata, diciamo, perlomeno dal decimo secolo, come dire, una via di passaggio importante per gli imperatori che venivano in Italia o tornavano verso la Germania. Direi che Bolzano è nata proprio in epoca sveva, insomma, come città, perché prima c'erano città importanti, erano Bressanone piuttosto che Trento, però Bolzano nacque proprio perché c'era anche il bisogno di presidiare, come dire, una via di passaggio importantissima per gli imperatori, non solo quelli svevi, ma in particolare per quelli svevi, perché per venire in Italia dovevano passare per lo più la via obbligata quasi era questa, solo una volta Barbarossa scese da Locarno passando per la Svizzera ai tempi della battaglia di Legnano. Quindi diciamo che Bolzano è nata, è coetanea, ecco, dell'epoca sveva, perlomeno quella rappresentata da Barbarossa, Enrico VI e Federico II di Svevia, schiacciata, diciamo, fra i signori del Tirolo e in quell'epoca e Verona, dove era un altro importante, diciamo che era un importante centro in una prima fase avversario Federico II di Svevia, poi con Renzellino da Romano alleato, però diciamo che riuscirono i veronesi, bloccando le chiuse di Verona, a impedire agli eserciti provenienti dalla Germania di intervenire nella pianura padana. Quindi ecco, questa valle è stata fondamentale. Io poi, vabbè, un po' in ogni posto in cui vado cerco di trovare i riferimenti tra questo personaggio, tra Federico, i collegamenti tra Federico II di Svevia e la realtà in cui sono a raccontare il mio libro. Vorrei fare una premessa, però questo non è una biografia di Federico II di Svevia. Lui mi ha detto: sono un bravo giornalista, non lo so, di sicuramente non sono uno storico, anche se ho cercato di usare il metodo dello storico e anche del giornalista nella verifica delle notizie, delle fonti, eccetera. Lo storico medievale, soprattutto quello che conosce il latino medievale, accesso diretto alle fonti, le leggi, le interprete, eccetera. Io ho letto molto su Federico II di Svevia, ma non sono padrone delle fonti come lo deve essere uno storico. Questo è un libro in cui si racconta anche la storia di Federico II per evitare che la gente debba comprarsi a una delle tante biografie, alcune qualificatissime, altre meno dedicate a questo personaggio, ma soprattutto un libro sul modo in cui un mito medievale, in questo caso Federico II di Svevia, è stato usato a livello politico, a livello anche di pop, popolare, nel corso dei secoli e fino ai giorni nostri, fino al XXI secolo. Vorrei ricordare che l'ultima volta che un politico italiano ha citato Federico II di Svevia in uno dei suoi discorsi, l'hanno fatto D'Alema, l'hanno fatto Rutelli, l'hanno fatto Bossi, l'hanno fatto tanti altri, è stato però Conte, quando ha dato il ben servito al governo con Salvini, gli ha citato Federico II di Svevia come esempio di politico illuminato a cui avrebbe dovuto fare riferimento, secondo Conte, che non a caso è pugliese, dove, poi ne parleremo dopo, il mito di Federico II, il mito positivo, l'amore cieco, in quanto amore cieco, incapace di vedere anche i difetti di questo personaggio, è più radicato. Come dire, lo strano caso del grande amore dei pugliesi di oggi, non quelli del passato, per Federico, perché la Puglia di una volta era un'altra cosa, un altro confine, era tutto il sud Italia, nel Medioevo la Puglia di fatto era definita a Puglia, tutto il sud Italia, escluse le isole. Ecco, si parte da questo grande amore per capire come nel resto d'Italia, dell'ex regno del sud normanno, nel nord Italia, in Germania, anche nei paesi arabi, invece viene vista oggi la figura di questo personaggio, che si presta molto perché ha lasciato dietro di sé una scia di miti, di storie. Ma appunto, Marco, se questo uso in chiave, come dire, identitaria di Federico al sud, come si rapporta poi con i discorsi borbonisti o neo-borbonici che anche esistono? Le due cose si sovrappongono? Cioè, ricordo che mi sembra il Consiglio regionale delle Puglie o della Puglia, non so mai se si dice della Puglia o delle Puglie. Puglia. Le Puglie si dice in francese ancora, in francese Puglia è definita al plurale, però c'è un motivo per cui una volta si chiamavano le Puglie. Perché ci citava la Basilicata? No, adesso c'è... No. Qual è il motivo? Il latino che sono le Puglie, no? Cioè, in ogni caso il Consiglio regionale, mi sembra 2 anni fa, ha deliberato quella mozione dove per istituire la giornata in memoria delle vittime dell'Unità d'Italia, no? Cioè, che è un discorso nettamente borbonico, no? Cioè, basato peraltro su delle assunzioni sbagliate, contraddette dalla storiografia. Quel discorso lì, cioè di creare un'identità, come dire, meridionale, contrapposta al padanesimo, che ormai si è un po' appannato, come ben sappiamo, si sovrappone a Federico o sono due cose distinte da tenere da distinguere? Hanno radici totalmente diverse, nel senso che i neoborbonici di oggi, anzi è nato un movimento da poco che propone di coalizzarsi per impedire che l'Italia del centro-nord affrutti ancora il sud, insomma un vecchio discorso, però c'è Pino d'Aprile, che è un ex direttore di Oggi di Gente, che poi ha scritto Terroni, un libro in cui ha denunciato la presunta, come dire, pulizia etnica fatta dai Savoia nel sud Italia, ha lanciato questo movimento. Però riferimenti a Federico II di Svevia in questo discorso qui non ce ne sono, mentre nell'immaginario non solo del collettivo, come si suol dire, cioè non solo tra gli addetti ai lavori, gli appassionati, ma anche fra la gente comune, il luogo in cui c'è un maggiore orgoglio delle radici, chiamiamole federici, una maggiore esibizione dell'orgoglio delle radici federiciane, per rappresentare un sud che ha la possibilità di essere, come dire, centrale rispetto alla politica anche al giorno d'oggi è la Puglia, e c'è una ragione, io spiego nel libro. Rispondo velocemente alla domanda: le Puglie ai tempi di Bormoni si chiamavano Puglie perché la regione Puglia, come tutte le regioni italiane o le province autonome, sono un'invenzione post seconda guerra mondiale, quei confini amministrativi che conosciamo. Ai tempi dei Borboni la terra di Bari, la terra d'Otranto, la Capitanata non erano neanche città, erano delle province che non erano neanche citate in modo consecutivo, insomma. Nella Reggia di Caserta ci sono gli stemmi di tutte le province del Regno e non è che sono di fila Capitanata, Bari, terra di Bari, terra d'Otranto, sono messe sparpagliate perché la Puglia come entità regionale è nata nel dopoguerra, così come altre regioni, ma in particolare la Puglia, mentre ai tempi dei Romani la Puglia comprendeva metà dell'attuale Campania, la Basilicata, il sud della Puglia, il Salento si chiamava Calabria, che poi è stato preso, ecco, ai tempi di Federico II di Svevia. Per Apulia, soprattutto nei paesi in Germania, nell'area tedesca, diciamo, era chiamato tutto il sud Italia, escluse la Sicilia e la Sardegna, diciamo, quindi non c'era alcun riferimento alla Puglia così come è attualmente. Le Puglie è la denominazione usata ancora fino ai tempi dei Borboni, ma è rimasto soltanto nella lingua francese, la Puglia, che si chiamano, che dove le Puglie, si dice ancora le Puglie, le Puglie al plurale. Per il resto il mio libro si occupa anche del cerca di spiegare come mai proprio nella Puglia del giorno d'oggi, con questi confini amministrativi definiti nel dopoguerra, per caso, perché poteva nascere anche una Puglia con confini diversi, poteva nascere la regione Salento come era stato proposto, eccetera, come mai proprio in Puglia c'è questo amore viscerale e acritico, questa cotta per Federico II di Svevia, mentre in altre regioni del re corrispondenti col Mezzogiorno d'Italia e col Regno del Sud Normanno, di fatto non c'è tutta questa grande passione. Se posso anche entrare un attimo nel merito, a meno che tu non abbia... Sì, diciamo, vorrei, se permetti, no, così intersecchiamo un attimino il nostro discorso. Tornando al 1250, che non avevamo poi finito il discorso, no? Ci ricordi forse dove è sepolto? No, cioè, anzi, non è un mistero, no? Tutti noi, penso, siamo stati a Palermo, abbiamo visto la cattedrale, abbiamo visto le tombe, ma magari lì, peraltro, è sepolto accanto a Ruggero, accanto a Costanza. Quello ricordo che una volta mi telefonasti, no, con quel libro che sei riuscito a comprare, no? Cioè, nel mercato antiquario di Ernst Kantorowicz. Ci ricordi forse, perché lì abbiamo un legame molto forte, Ernst Kantorowicz, che è un medievista tedesco della prima metà del Novecento, ha scritto la prima grande biografia, monografia, è uno dei primi che ha creato il mito di Federico II, e però a sua volta ha avuto una storia molto travagliata, e tutto nasce dalla tomba di Federico a Palermo, no? Il famoso Geheimnis Deutschland, no? Che beh, lui effettivamente morì nel Foggiano, e quando ricordo ai foggiani che lui era così legato alla Puglia che chiese di farsi seppellire a Palermo, ci rimangono male, sostengono che è stato un complotto, lui non l'aveva mai detto, ma l'hanno rapito praticamente. Fatto sta che lui è sepolto nella cattedrale di Palermo in un sarcofago, dove poi nelle epoche successive ci misero anche altri i corpi di altri personaggi della nobiltà siciliana. Vicino a lui c'è con sua mamma, c'è suo padre, c'è suo nonno. Sta di fatto che lui si fece seppellire a Palermo, la città in cui ha passato la sua infanzia. Sì, della corte, no? Cioè, sì, diciamo che Federico II di Svevia è nato a Jesi. A Jesi sono gasatissimi su Federico II di Svevia, cioè hanno fatto anche un museo virtuoso, più o meno, insomma, c'è una statua e così, ma lui ci restò meno di 3 giorni, insomma, lì, perché poi la mamma lo affidò alla moglie del duca di Spoleto e lui fino ai 3 anni visse a Foligno. Ora c'è Foligno che ultimamente si è gasato a sua volta dicendo: nessuno ci ha mai riconosciuto che siamo noi quelli che l'avevano ospitato fino ai 3 anni, adesso bisogna dire che anche Puer, Umbria e via di questo passo. Lui rimase a Palermo fino al 1212, diciamo dal 1197, però è un posto dove si è formato culturalmente, dove ha assorbito lo stile della corte normanna, che era una corte cosmopolita, che amava assorbire le culture altrui, amava circondarsi i re normanni di intellettuali ebrei, islamici, bizantini, eccetera. Quindi diciamo un'impostazione mentale lui l'ha avuta lì in Sicilia e poi si è fatto seppellire lì. Per fare un salto a Kantorowicz. Per arrivare a Kantorowicz è una bella storia, perché nel mio libro ovviamente racconto quali sono gli elementi che ci fanno capire quanto è grande l'amore di Federico II di Svevia da parte dei pugliesi. Racconto qual è il rapporto con gli altri meridionali al giorno d'oggi, con gli altri italiani del centro e nord Italia, e poi parlo anche della Germania. In Germania è un personaggio poco noto al giorno d'oggi, è più noto Federico Barbarossa, se dobbiamo prendere qualche Federico, oppure Federico II di Prussia ancora di più, perché è uno dei pilastri, insomma, della nazione germanica come la conosciamo noi. Lui solo fino a qualche anno fa, noi ci siamo conosciuti durante un convegno a Innsbruck internazionale sul mito di Federico II di Svevia in Puglia, in Tirolo. I ragazzi dell'università che ci aiutavano nella gestione, insomma, del convegno mi dissero che avevano dovuto andare a studiare un po' Federico II di Svevia, perché non ne sapevano assolutamente nulla, sebbene un rapporto tra Federico e Innsbruck ci sia. Vivo di Kantorowicz. Adesso, se volete, torniamo indietro. Diciamo, non so come si faccia, però in qualche... Ah no, così, eccolo qua, non so come... Questo è il libro di Kantorowicz, come vedete c'è una svastica sopra. Dunque, la storia è questa: Federico II di Svevia, a parte un piccolo, viene praticamente dimenticato quasi subito in Germania dopo la scomparsa della sua casata, torna in auge brevemente nella prima metà dell'Ottocento per questioni patriottiche legate, insomma, alla storia della Germania dopo lo scontro con Napoleone, eccetera, ma viene subito messo da parte perché si preferisce Barbarossa, che si accusava Federico II di Svevia di essere troppo italiana, quindi in parole povere, di essere troppo legato al sud e di centrare poco con la storia della Germania. La Germania esce dalla Prima Guerra Mondiale, come sappiamo, con le ossa molto rotte. C'era bisogno di individuare dei miti fondatori che dessero, come dire, che fossero stimolanti rispetto alla prospettiva di ricreare una Germania capace di avere un ruolo importantissimo in Europa. In un circolo culturale negli anni 20 capeggiato da un poeta che si chiama Georg, non so in tedesco, Stefan Georg, il D'Annunzio tedesco, no? Si creò un circolo di intellettuali nazionalisti che cercarono, insomma, di trovare nella cultura tedesca dei punti di riferimento per rilanciare il mito della grande Germania. Proprio questo poeta, che era il capo di questo circolo, incoraggiò Kantorowicz, che era giovane, a riscoprire Federico II di Svevia. Ne nacque questo libro, Federico II Imperatore, pubblicato a Berlino nel 1927, quindi prima dell'avvento del nazismo. La svastica venne usata un po' perché è un simbolo, come dire, ancestrale nostro, ma venne usata perché era cara a questo circolo, era proprio il simbolo di questo circolo intellettuale, e solo successivamente fu adottata dai nazisti come simbolo del partito. Chi era Kantorowicz? Veniva da Poznan, insomma, come origine, che allora faceva in Poznan, credo, in tedesco. Non Bozen, ma Poznan. Poznan, sì, a me sì. Non viene. È una sonanza molto casuale, no? Poznan, appunto. Però era chi era? Kantorowicz era un nazionalista tedesco di estrema destra, quella pre-nazista, volontario della prima guerra mondiale con l'esercito tedesco, volontario contro gli spartachisti e gli altri gruppi tedeschi che in Germania cercarono di riprodurre, di creare le condizioni per replicare la rivoluzione russa in Germania. Scrisse questo libro che ha quasi 100 anni ormai, dove però Federico II di Svevia viene rappresentato come il prototipo del demiurgo con una cultura tedesca, capace di creare un impero dal Mare del Nord al sud del Mediterraneo, esaltando, come dire, i valori della germanicità. Questo in estrema sintesi. Questo libro diventò molto celebre e diventò ancora più celebre sotto il nazismo, perché i nazisti presero questo esempio di un imperatore del Sacro Romano Impero capace di governare l'Europa, metà dell'Europa, dal Mare del Nord al centro mediterraneo, come un modello di riferimento più Sacro Romano Impero importante. C'è Göring che regalò una copia di questo libro a Mussolini, per dire. Ribbentrop regalò un plastico, diciamo, di Castel del Monte, il più famoso castello federiciano, ad Adolf Hitler. Canalis, uno degli ufficiali tedeschi che tentarono di fare secco Hitler e poi furono beccati e lui stesso fu strangolato in un lager in Germania, a sua volta, pur non essendo anti-Hitler, sembra che teneva sul comodino, ha tenuto sul comodino fino all'ultimo una copia di questo libro. Insomma, il regime nazista si appropriò di questo libro, trasmettendo questo interesse anche al regime fascista e agli intellettuali di regime. Con un piccolo dettaglio, Kantorowicz era ebreo. E quindi a un certo punto fu, come dire, si abusò del suo libro e di quello che aveva scritto intorno a Federico II di Svevia, nonostante fosse ebreo, a lui però, insomma, come dire, la svolta nazista, antisemita, ovviamente del regime non piacque granché. Si salvò la vita in un primo momento perché all'inizio e mantenne anche la cattedra in Germania, perché all'inizio coloro che erano stati volontari durante la prima guerra mondiale, pur essendo ebrei, erano stati, come dire, graziati dalle prime epurazioni, però a un certo punto pensò bene di andarsene, andò prima in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti, non volle più saperne niente di questo libro, rifiutò persino che fosse ripubblicato dopo la guerra, dicendo pubblicatelo, disse agli eredi dell'editore che aveva pubblicato, però dopo che io sarò morto. Infatti la nuova edizione di questo libro è uscita dopo la sua morte, che è venuta nel 63 negli Stati Uniti, dove aveva una cattedra di storia medievale. Ecco, anche la parabola di questo personaggio è molto particolare ed è rappresentativa del modo in cui lo stesso personaggio storico, la stessa storia usata da regimi in contesti diversi, può diventare anche o una mazzaferrata oppure può essere utilizzata per esempio per parlare della tolleranza nei confronti di culture diverse. Insomma, difatti, Marco, se permette, il secondo volume, che è altrettanto importante perché contiene tutti i materiali, no? Perché questo qua è senza note, cioè il secondo volume contiene tutto l'apparato, sì, che magari oggi è più importante ancora del questo qua. Questo è molto interessante dal punto di vista della creazione del mito, no? Perché è fondamentale, è il primo che ne fa questo mito. che poi lo rinnega. Il bello di Kantorowicz è che poi, peraltro lui poi cambia anche l'intonazione del nome e si fa chiamare Kantorowicz negli Stati Uniti, no? Per rinnegare anche la sua tedeschità che gli è stata... Tra l'altro sua madre e sua cugina morirono in un campo di sterminio. Sì, sì. Poi lì... E diventa negli Stati Uniti, correggimi se dico, proprio quello studioso che oggi tutti conosciamo, no? Cioè anche, perché poi ha scritto dei lavori fondamentali, no? The King's Two Bodies, per esempio, sì. I due corpi del re, proprio dove fino ad oggi è l'esame più compiuto della teologia, della sacralità dell'impero medievale. Lui scinde fra la persona e la transpersonalità, cioè diventa quasi un sociologo del potere, no? E forse grazie anche alle vicissitudini che l'ho avuto, non è l'unico ovviamente, no? Abbiamo altri casi. Abbiamo anche uno storico italiano importante, Pepe Barese, che è, come dire, uno dei padri della cattedra di storia medievale, della tradizione medievista. Barese, che scrisse Federico II Imperatore alla fine degli anni 30, sostenendo che Mussolini era l'erede della tradizione di questo, sempre in estrema sintesi, che ovviamente non lo scrisse così in maniera facile, però teorizzava che il fascismo fosse la terza Roma, no? Cioè questa del... Esatto, anche lui gli scrisse questo libro nel dopoguerra chiedendo scusa per queste analogie con Mussolini. Però diciamo che gli storici, anche i giornalisti, un po' tutti noi, c'è, cioè anche la storia, voi faccio da giornalista, vedete un tamponamento, un incrocio, prendete 10 persone che hanno assistito al tamponamento, ognuna di queste 10 persone ve la racconta in maniera diversa. E anche gli storici hanno punti di vista diversi, perché sullo stesso Federico II di Svevia, da Kantorowicz alla Bulafia e via di e ad altri storici, si hanno visioni diverse che sono legate, nel caso degli storici e anche dei giornalisti, al contesto sociale e politico in cui si è. È chiaro che un giornalista di regime o uno storico legato al regime durante il fascismo leggeva la storia in maniera funzionale alle esigenze del regime in quel momento. Questo vale anche in altri paesi, in altri contesti, ma nei regimi totalitari chiaramente i giornalisti e gli storici non sono padroni di scrivere quello che vogliono. Alcuni in buona fede si adeguano, cioè sono convinti che davvero, altri si adeguano per convenienza, però vorrei introdurre un altro tema, se me lo concedi. C'è questo uso e abuso che poi ha il suo massimo momento proprio nelle dittature, no? O nelle preparasse delle dittature negli anni 30-40, anche di Federico II. Abbiamo un ripetersi di un abuso di questi miti del periodo federiciano, e questo mi sembra uno dei capitoli centrali del tuo libro, con il mito della Lega Lombarda, no? La ripresa di Alberto da Giussano, il mito di Alberto, e magari su questo, perché mi sembra che in questo tuo libro è un elemento chiave, no? per capire anche l'operazione intera del tuo approccio, la giusta posizione dell'abuso di Alberto da Giussano, di questa creazione del mito, che ovviamente precede, no? Cioè come figura storica Federico II e due generazioni prima. Alberto da Giussano. Alberto da Giussano, il simbolo della Lega, no? Cioè Alberto da Giussano sarebbe stato il condottiero che, con la Compagnia della Morte, che era una compagnia formata da quasi 1000 soldati della Lega Lombarda, quella dei tempi di Barbarossa, XII secolo, difese il Carroccio e sconfisse, portando la sconfitta di Federico Barbarossa a Legnano. Questo episodio, la battaglia di Legnano, Alberto da Giussano, la Compagnia della Morte, sono diventati nell'Ottocento, durante il periodo risorgimentale italiano, in cui bisognava compare sulla la lotta patriottica degli italiani contro gli austriaci. Per niente. Come? Dovevano fare, non compavano per niente. Comunque, durante quel periodo lì, la retorica risorgimentale sabauda pompò perché si utilizzassero argomenti risalenti, episodi risalenti al Medioevo per, come dire, pompare ulteriormente la retorica risorgimentale anche austriaca. Quindi che cosa si cerca? Si cerca nel passato e si trova la guerra di alcuni comuni del nord Italia legati nella Lega Lombarda contro l'imperatore Barbarossa e poi anche contro Federico II di Svevia come esempio della continuità della lotta anti-tedesca e anti-austriaca da parte degli italiani continuata nell'Ottocento con le guerre di indipendenza. Quindi è in quel periodo che la battaglia di Legnano diventa, sebbene abbiano perso molte battaglie comuni anti-imperiali in quel periodo, però quella di Legnano dove vinsero diventò, come dire, Giosuè Carducci e altri poeti ottocenteschi ne scrissero in maniera retorica e elogiativa, addirittura nell'inno di Mameli, che ci sono vari, c'è un riferimento chiaro alla battaglia di Legnano come esempio della grande potenza patriottica italiana. Il bello è che, primo, appunto, come dicevo, la battaglia di Legnano è stata una battaglia vinta dalla Lega Lombarda di allora, ma molte altre furono perse, insomma, dalla Lega Lombarda, sia della prima che della seconda, e in altre occasioni vinsero Barbarossa o Federico II di Svevia. Secondo, Alberto da Giussano è vero quanto è vero Peter Pan, Batman, i Fantastici Quattro, nel senso che non ci sono documenti storici in cui risulti questo personaggio, che è stato inventato 150 anni dopo le sue presunte gesta da un frate che era alla corte dei Visconti, Galvano Fiamma, il quale era stato incaricato di scrivere una storia di Milano che potesse a sua volta vantare delle radici nei secoli precedenti, e lui, siccome non trovava un personaggio che gli piacesse sufficientemente tra quelli noti, si inventò Alberto da Giussano, che non è mai esistito, come dire simbolo della lotta anti-sveva da parte della Lega Lombarda. La stessa giuramento di Pontida non si sa se c'è mai stato, ci furono certamente dei patti fra i vari comuni, altrimenti non si sarebbero alleati, però non esistono documenti in cui ci sia dell'epoca in cui ci sia riportato che c'è stato un giuramento di Pontida, cioè il posto dove la Lega Nord di Umberto Bossi continua a Castelmonte. Fermiamoci un attimino su Castelmonte, che mi sembra. Finisco. La retorica risorgimentale, provo tu perché non ci riesco, se vuoi. La retorica risorgimentale che intorno alla battaglia di Legnano, gli Svevi, eccetera, che era stata concepita con finalità unitarie e, come dire, nazionaliste italiane, è stata ricicciata tale quale dalla propaganda politica della Lega di Bossi, in funzione però indipendentista e antinazionale, usando praticamente le stesse motivazioni, gli stessi spunti utilizzati nell'Ottocento, ma con una funzione contraria. Come vedete, anche in questo caso la storia si può usare in vari modi, e gli stessi eventi possono diventare, come dire, il pretesto per imbastire una retorica unitaria nazionalista italiana, o per imbastire una retorica non unitaria indipendentista padana, presupponendo l'esistenza di una Padania che a sua volta non esiste né come regione storica né come area, cioè è stata inventata a tavolino, e questo penso che sia, ecco, è una notizia, direi, è una notizia diciamo per i più, direi, no? Il Castel del Monte, perché anche questo è un altro dei miti, no? Cioè, si pensa addirittura che non ci sia mai stato, no? Allora, tra l'altro non era compiuto quando lui è morto. Questo è Castel del Monte all'inizio del Novecento, dopo che aveva subito un primo restauro. Dunque, la storia è questa: Castel del Monte, che nell'immaginario dei pugliesi è sempre stato, come dire, una specie di sacrario della pugliesità, in realtà era stato abbandonato per secoli, nessuno si ricordava neanche più che ci fosse stato, finché ci sono stati i Borboni era usato come ovile o come cava di pietra per costruire masserie in giro per la Puglia circostante. Lo Stato italiano lo comprò da questa famiglia di pugliese di Andria con radici nobiliari che l'aveva ereditato nel corso dei secoli per pochi soldi, ne spese un po' per sistemarlo, perché come vedete qui era già stato risistemato un po', però le condizioni sono veramente pietose. Soltanto alla fine degli anni, diciamo durante il fascismo, quando Federico II di Svevia diventò anche per il regime fascista un punto di un faro nella notte, si cominciò prima alla fine degli anni 20, mi sembra nel 27, a sistemarlo, e l'aspetto attuale invece che prima o poi uscirà, insomma che adesso è bello liscio, sembra costruito l'altro giorno, è frutto di restauri compiuti tra gli anni 80 e gli anni 90 del XX secolo. Questo per dire che quello che è un simbolo identitario per i pugliesi di oggi, che pensano che sia sempre stato tenuto bene, come ora non so qua se andiamo avanti. Basta andare avanti così. Basta, lo so. Prima o poi comparirà, abbiate pazienza, lì si vedeva, no, questo lì qui si vede, insomma, su questo libro, adesso è bello, però è stato, come dire, peraltro il castello originario, visto che si è imbastita intorno al nostro castello una serie di libri, convegni, cose a sfondo esoterico, numerologia, eccetera, che sono tutte ovviamente fesserie. All'epoca aveva una sovrastruttura in legno, intorno aveva delle costruzioni in legno, insomma non era così isolato come lo vediamo adesso, però è un simbolo identitario oggi per i pugliesi, effettivamente bellissimo, anche sulla moneta da un centesimo, due centesimi, non mi ricordo, però è uno degli elementi che giustificano nell'immaginario dei pugliesi del XX e XXI secolo la loro, come dire, il loro grande amore nei confronti di questo sovrano, che avrebbe rappresentato in questo castello la sua preferenza per la Puglia. Peccato che lui ai tempi definisse a Puglia tutto il sud d'Italia e non solo la Puglia del giorno d'oggi. Nel mio libro, scusa, finisco un attimo e così questa cosa così la dico e mi tolgo il pensiero, racconto anche come mai in Puglia c'è questo grande amore, nel resto del sud no, nel centro Italia invece si vive ancora vagamente del risentimento risorgimentale, poi leghista, in Germania ce lo ricordo un po', mentre per gli islamici alla faccia della cosiddetta crociata pacifica resta sui giornali, i libri di oggi che scrivono nei paesi arabi, un nemico. La cosa curiosa è questa, poi se mai ci tornerò, se io vi dico che c'è una regione in cui c'è una compagnia aerea che si chiama Federico II Airways, c'era perché non, che c'è una centrale termoelettrica che si chiama Federico II, che c'è una TV che si chiama Telesveva, che c'è una compagnia, una polizia privata che si chiama Sveviapol, e vi chiedo secondo voi dov'è, probabilmente mi direte in Svevia, che è la regione storica in cui ha avuto origine la casata, che oggi è divisa insomma, nella parte sud occidentale della Germania, diciamo tra Stoccarda e Monaco di Baviera, per capirci a grandi linee. E invece no, la regione in cui si usano Federico II, si è nata una compagnia che si chiama Federico II Airways, la Puglia, è nata a Foggia, è durata pochissimo, però è nata lì. Telesveva è nella zona di Bari, la Sveviapol è in Salento, cioè in Svevia non se lo sognano neppure di chiamare, di chiamare una compagnia aerea, una polizia privata o una TV con nomi svevi, ma il bello è che in Puglia sono chiamati così anche ferramenta, c'è una carrozzeria sveva che avrete visto passare, pompe funebri, un centro per alcolisti anonimi, hanno tutti nomi dedicati a Federico II di Svevia. Mentre in altre parti del sud Italia c'è l'Università Federico II, ma ha un senso perché è stata fondata da lui e per giunta è stata chiamata così nel 1987, prima si chiamava Università degli Studi di Napoli, punto. c'è una fondazione a Palermo dedicata a Federico II, però altrove, a parte qualche albergo, nessuno si sogna di chiamare la gelateria Sveva, la pizzeria Federiciana, le pompe funebri Puera Puglia. Invece in Puglia succede, ho fatto una ricerca proprio sulle pagine bianche online per trovare questo, non è complicato. Beh, se la deve vedere con Padre Pio, no, a questo punto. Cioè, sì, diciamo che i miti fondativi della Puglia del della seconda metà del XX secolo e del XXI sono: uno è Padre Pio, che non è nato in Puglia, neppure lui, e un altro è Federico II di Svevia. E qui c'è una regione nella storia di questa regione che non ha una forte identità regionale, cioè nessuno in toscani, fiorentini possono stare sull'anima agli altri, però nessuno nega che abbia diritto a Firenze a essere capoluogo, idem in Milano, in Lombardia, Genova e Liguria. Invece in Puglia, se dite a un leccese che Bari è capoluogo, ci resta malissimo. Idem a un foggiano. Quindi diciamo questi due personaggi, poi se volete ci torniamo, sono due pilastri, uno laico, uno religioso, che hanno creato una cosa di cui i pugliesi avevano bisogno, come dire, dei miti fondativi. Ma so che qui potremmo andare avanti ad ore, meglio direi a questo punto apriamo anche un attimino a un dibattito interno. Avendo la fortuna di avere Marco, vedo già una mano alzata in fondo alla stanza. Questo terribile accecamento di Piero del Mignolo, lo facevano spesso da allora, e poi io mi pare che abbia ammazzato la prima moglie, qualcosa del genere, non sono più, non c'è io, insomma, degli intrigli. Questo mi dà l'occasione per ricordare che, soprattutto sempre in Puglia, viene considerato il primo dei pacifisti, il primo degli ecologisti, il primo degli animalisti e via, non sto scherzando per la questione dei falchi, il primo dei pacifisti che avrebbe fatto una crociata pacifica, che la fece, eccetera. In realtà lui era un sovrano medievale a tutto tondo, un po' più colto della media nell'epoca, che però gli piaceva la poesia, gli piacevano gli intellettuali islamici o ebrei, però quando c'era da far fuori i ribelli arabi in Sicilia o quando c'era da menare le mani con i comuni del nord Italia, non è che si andava lì con fiorellini in mano, andava lì e faceva quello che facevano i sovrani medievali del suo tempo e non solo, anche i capi di Stato del giorno d'oggi. Infatti a me capita in Puglia di dire: guardate che era così buono, perché molti in Puglia hanno l'idea del re buono, Sean Connery dei cavalieri lì, nel film dei cavalieri, dico: guardate che lui, Pier delle Vigne, ritenendo che lo avesse tradito, l'ha fatto accecare nella piazza di Pontremoli. Insomma, suo figlio Enrico, che lo tradì alleandosi a un certo punto con i comuni del nord Italia, Enrico lo fece arrestare, condannare a morte, poi commutò la pena nell'ergastolo. Questo qua a un certo punto è caduto giù da un dirupo, non si capisce bene se si è buttato giù, però per dire, non aveva pietà neanche con i suoi. La storia della moglie uccisa non mi risulta, però, anche perché di quelle ufficiali, poi se una delle tante storie che ha avuto, perché è stato un figlio giù dal Bologna. Quello è il figlio che è caduto da Bologna. Prego. Ah, forse c'era prima. Sì, grazie. Voglio portarvi questa successione per sindaco. Sempre. Allora, no, brevemente per ricordare un paio di cose rispetto a quello che avete detto, e cioè che erano tempi più crudeli, meno leggiadri dei nostri, evidentemente, quindi il Medioevo si comporterà in modo diverso che oggi. In questa smania pugliese per la svevità, direi che trova corrispondenza ai giorni nostri anche in Germania rispetto a certe espressioni italiane, perché i tedeschi adorano gli italiani per una serie di aspetti, a partire dal mangiare, quindi ci sono denominazioni italiche che ricorrono moltissimo in Germania, e non credo che sia, credo che sia più una moda dell'oggi piuttosto che un effettivo amore, che poi arriva magari secondariamente per Federico, perché viene riscoperto, ma è proprio il mito del monarca illuminato tedesco per l'italiano poco portato ad accettare la propria democrazia, che sono tanti, è sicuramente una cosa importante. Ma io volevo fare una domanda, e l'ha già accennato: Federico II, protagonista della Sesta Crociata, viene accolto con sorpresa al di là del Mediterraneo, perché parla perfettamente l'arabo e perché conosce la cultura islamica. Quindi è un caso particolarissimo di imperatore e di franco. Sappiamo che per gli arabi noi eravamo tutti franchi quando andavamo a fare le crociate, e perché precedentemente a lui andavano dei guerrieri che avevano come qualità principale quella di saper combattere, ma erano sostanzialmente degli ignorantoni. Ecco, questa accoglienza, che fu un'accoglienza di sorpresa ma anche di stupore positivo, non ha trovato poi successivamente, lei lo diceva, continuità nella storia, perché Federico II oggi è visto dal punto di vista della storia e della storiografia degli arabi in maniera estremamente negativa. Ma come si spiega questo? E dunque, intanto non è vero che lui fece una crociata fra virgolette pacifica perché amava la cultura araba e quindi fu ben accolto. La fece perché si mise d'accordo con un sultano, Kamil. Facciamo un passo indietro. Lui diventa imperatore del Sacro Romano Impero. Promette al Papa di turno: io in cambio faccio una crociata. E però sta crociata non faceva mai, perché lui aveva altre cose a sistemare nel Regno del Sud e Nord Italia. A un certo punto si decide a fare una crociata, parte, non sta tanto bene, anche lui si ferma, non supera neanche la Puglia, torna indietro e viene scomunicato a causa di questa... A un certo punto, per farla breve, si decide a fare questa crociata, però dice la fa perché il Papa, allora una scomunica oppure no, era influente rispetto alla credibilità politica, diciamo così, o meno di un sovrano, non solo degli imperatori del Sacro Romano Impero, come sappiamo. Il decide di fare questa crociata, però dice: io non ho voglia di fare una guerra giù perché mi costerebbe un sacco di soldi. La guerra semmai la faccio ai comuni del Nord Italia. Vado lì e mi metto d'accordo con il sultano Al-Kamil. Si mette d'accordo perché il sultano Al-Kamil, mentre Federico qui in Europa aveva i problemi col Papa che voleva di turno, voleva farlo fuori con i comuni ribelli, la maggior parte del Nord Italia, questo sultano aveva dei problemi, proprio delle guerre in corso con parenti stretti per il controllo del territorio della Terra Santa, in particolare di Gerusalemme e non solo. Insomma, c'era un conflitto fra potenti arabi per il potere. Quindi entrambi avevano interesse a non fare una guerra, ma a mettersi d'accordo per dedicarsi a problemi più rilevanti anche dal punto di vista militare. E così fecero un accordo in base al quale per un tot di anni Federico II di Svevia diventò re di Gerusalemme, senza per questo impedire agli islamici e ai musulmani di pregare dove dovevano pregare. Scaduto questo termine ritornò tutto come prima, poi ci furono altre crociate eccetera, però Al-Kamil non è mai, a parte i suoi intellettuali di corte, che a sua volta lì c'erano gli intellettuali cronisti di corte che erano suoi e quindi scrivevano che era stato un grande successo fare una crociata senza menare le mani, in realtà tuttora nell'immaginario arabo e islamico Al-Kamil è stato un traditore, perché si era messo d'accordo con un, e vale tuttora questo, si era messo d'accordo con un sovrano crociato, franco, cristiano, senza fare fuori l'infedele. Idem, Federico II di Svevia viene accusato in Europa dai papi, non solo, di essere sceso a pattica, non musulmano cattivo che occupava. Quindi il giudizio, diciamo, antifedericiano nel mondo islamico fosse contro il giudizio antifedericiano, la sua pulizia etnica, che se così vogliamo dire, no? Diciamo che io un articolo uscito pochi anni fa su una rivista, su un quotidiano scritto in arabo che esce a Londra, moderato, insomma, è stato faticoso tradurlo dall'arabo, però in sostanza si smentisce proprio, è un articolo di pochi anni fa dedicato centrato sulla smentita del fatto che quella sia stata una crociata pacifica e che Federico II di Svevia sia stato un crociato più buono degli altri, più tollerante. Lo spiegano usando gli argomenti siciliani, no? Sì, sì. Ne parlano in questo articolo citando storici contemporanei arabi, sostenendo un po' quello che ho sostenuto io poco fa rispetto al fatto che c'è stato un accordo per convenienza, per realpolitik si direbbe oggi, e non perché erano buoni l'uno o l'altro. Inoltre si fa riferimento al fatto che si dice lui amava la cultura islamica come quella ebraica, ma amava la cultura, ciò non gli impedì di uccidere, fare una vera e propria pulizia etnica in Sicilia quando si ribellarono i saraceni eredi della dominazione araba di quell'isola. A loro poi subentrarono i normanni, con cui ebbero una convivenza abbastanza pacifica, si ribellarono a un certo punto e lui fece veramente una strage, ne deportò 15.000 a Lucera nel Foggiano, isolandoli in un castello fatto su misura per loro e poi diventati le sue, come dire, i suoi mercenari di fiducia. Però per dire, quando c'è stato da fare una pulizia etnica, l'ha fatta, cioè in Sicilia ha ucciso decine di migliaia di saraceni che si erano ribellati in maniera anche molto crudele, quindi ha fatto quello che gli conveniva. Nel 1995 a Roma, a Palazzo Venezia, si è tenuta una bellissima mostra su Federico II. Vorrei leggere solo pochissime righe del catalogo che io comprai allora. Una sorprendente e ricca messe di opere letterarie sono collegate alla figura e alla persona di Federico II. Durante il suo regno, accanto alle arti, alla filosofia e alle scienze, nuovo respiro ricevettero la scrittura letteraria in lingua latina e greca. L'evento letterario certamente più significativo del regno federiciano fu il sorgere della scuola poetica siciliana, ovvero quel movimento di poesia che, schiusosi nell'aula federiciana con il viva bellezza, segnò l'avvio dell'intera lirica in lingua italiana. La corte di Federico fece del diniego esplicito alla voce provenzale dei trovatori, l'imperatore infatti dal 1220 rifiutò ogni benevolenza alla poesia in lingua locale, il punto di partenza per una riconversione di temi e modelli, per una rifondazione dell'esperienza cortese in lingua di sì. Lingua sì. Sì, per sì. Sì. Sì, proprio così. Cioè, la lingua di sì. Sì. Ma posso dire la poesia? No, mi faccia finire, se c'è. Scusa, c'è il libro. Come ben comprese Dante, dal cuore stesso del Regnum, Federico II con la sua corte costituì un avvio luminoso ed esemplare che formò e permise in luogo stesso ove poté nascere e svilupparsi la poesia in lingua volgare. E qui cito Dante: e poiché regale sede era la Sicilia, avvenne che quanto i precessori nostri produssero in volgare si chiamasse siciliano, e questo pure noi teniamo fermo, i costelli nostri varranno a mutare. Vorrei concludere con delle parole che ho letto in un libro antico che trovo a casa, e riguardo sempre a Federico II. Federico II diceva: parlo il francese con le dame, l'inglese con i mercanti, lo spagnolo con Dio, il tedesco con i miei cavalli e l'italiano con gli angeli. Una brevissima replica. Premetto a scanso di equivoci, perché in Puglia mi è capitato di essere contestato come un nemico di Federico II di Svevia, mentre dai leghisti anni fa in Lombardia, da un leghista come filo borbonico meridionale che sostiene, cioè, mi ho accusato di essere federiciano dai leghisti, antifedericiano da alcuni meridionali, con manifestazioni, contestazioni. Io sono ghibellino, cioè a me è molto simpatico Federico II di Svevia, sono ghibellino tuttora nei limiti delle mie possibilità. Detto questo, quel catalogo è molto elogiativo, però anche sul il ruolo di Federico II di Svevia in quanto persona, non in quanto monarca che era soprattutto in quel momento rispetto alla scuola poetica siciliana, è stato anche non ridimensionato, ma diciamo riletto negli ultimi anni in maniera anche non così elogiativa. Per esempio, a lui sono attribuite soltanto con sicurezza due poesie che sono piuttosto anche bruttine. Se basta andare anche sul web, sulla Federiciana della Treccani, cercare la scuola poetica siciliana, si entra nel merito della questione. Diciamo che Federico II di Svevia, oltre ad avere generato una serie, essere, come dire, alle spalle di una serie di miti generati magari nell'Ottocento, nel Novecento, cioè quello di cui abbiamo parlato prima, fu molto bravo, come tanti potenti molto narcisi ed ego riferiti, a creare il proprio mito, così come lo fecero i suoi figli successivamente. Però se noi andiamo a vedere, per esempio, a un certo punto lui chiese ad Al-Kamil di metterlo in contatto con degli intellettuali islamici perché voleva discutere di filosofia greca. Come sappiamo, gli arabi sono quelli che ci hanno garantito, come dire, la continuità. Ci sono documenti scritti in cui un intellettuale risponde ad Al-Kamil: questo mi ha fatto delle domande così puerili e banali che magari si è messo in testa di capirci qualcosa, ma io a domande così non sto neanche a rispondere. Sicuramente lui, erede della cultura, dello stile di governo dei normanni che amavano circondarsi intellettuali di varie origini ed etnie, di varie culture, amavano imparare le lingue, eccetera, imbevuto di questa cultura, incoraggiò anche a Palermo la nascita di questa scuola siciliana di cui tanto si parla, anche se anche gli storici della letteratura, anche su questo ci sono pareri discordi. Da lì a considerarlo un premio Nobel per la letteratura, sfortunato perché a Oslo non c'era ancora nulla in grado di decidere di dargli il premio, è un po' esagerato, ecco, secondo me, così come esagerato dire che è stato un pacifista nel fare la crociata in Terra Santa. Diciamo che mi piace parlare bene delle persone. Ah sì, va bene. Comunque, brevissimamente, a Roma c'è la Sala del Carroccio in Campidoglio, dove lui fece, c'è un piedistallo sul quale c'era il carroccio che Federico II di Svevia catturò sconfiggendolo alla seconda Lega Lombarda, Corte Nuova, e lo portò lì a Roma in Campidoglio per far paura al Papa, perché disse: allora io lo metto qui in Campidoglio, tu lo vedi e capisci che se io voglio ti faccio fare la fine del carroccio. Poi dopo la sua caduta venne disperso, se ne andò, però tuttora c'è la Sala del Carroccio col piedistallo su cui era stato posto, e Rutelli citò queste circostanze in un periodo in cui voleva farsi diventare simpatico a Bossi per ragioni politiche. C'era ancora... Sì. Io volevo, a proposito di poesia, se ci dice qualcosa su Giacomo da Valentini, che sembra che ha scritto la prima poesia in lingua, bellissima, che era pure il notaio di Federico II. Beh, io non sono preparatissimo su... lo cito nel libro, ma non sono entrato nel merito, perché sennò avrei dovuto scrivere l'enciclopedia britannica. Cioè, l'enciclopedia federiciana, peraltro, esiste. Esiste, quella della Treccani, però è disponibile completamente sul web, insomma, mentre quella vera è un malloppone anche molto costoso, credo che costi più di 1.000 euro. Ripeto, sì, è stato un personaggio rilevante nella diciamo preistoria della letteratura in volgare. I meccanismi attraverso... Ricordiamone forse è da Beate Venandi Cum Avibus, questa immagine, vero? Cioè il suo libro, questo, sì. O da lui... Beh, questo è Federico, anche... De Arte Venandi cum Avibus non è che l'ha scritta Federico II, lui si circondava come tutti, anche perché poverino doveva fare 3.000 guerre, andare da Palermo o da Foggia in Germania, non c'era ancora la Ryanair, neanche la Federico II di West, quindi ci voleva un po', non è che poteva fare tutto lui, però lui le costituzioni melfitane, questo libro sulla falconeria, la scuola siciliana, certamente dette un impulso, si circondò di intellettuali, che gli, ma questo vale anche per altri sovrani che hanno, come dire, lasciato delle tracce, ma non si sono messi materialmente, ecco, loro a scrivere libri. In questo libro sulla caccia con i falconi dice che per E far imparare bene ai falconi ad andare a caccia bisogna cucirgli le palpebre con del filo, e questo se lo dice a coloro che sono convinti che lui sia stato il primo degli animalisti, ci restano male anche su questo fronte. Però ecco, diciamo che se non usava le buone maniere con i saraceni, i suoi sudditi, figurarsi con i falchi, con cui amava andare a caccia, peraltro una tradizione ereditata dagli arabi, perché la falconeria è stata, come dire, era il tipo di caccia che tuttora nei paesi arabi viene praticata. Comunque è uno dei primi testi dell'Occidente nel quale prevale l'approccio empirico, no? Cioè quello assolutamente, no? E peraltro è conservato anche esso a Roma, no? Nel Vaticano, sì. Almeno una, perché una due copie esistono. Sì. Ci sono altre domande? Sì, tornerei sulla questione della lingua. Più che la bellezza letteraria, eccetera, eccetera, non ritieni importante il fatto che un imperatore accettasse di attribuirsi delle poesie in volgare, quando la lingua imperiale era il latino, la lingua scientifica era il latino, è una grossa novità. No, ma questo senza dubbio, cioè, non è in siciliano, ecco. Dato fondato, cioè, no, ma senza dubbio lui è stato innovativo, cioè nella sua epoca è stato dei sovrani più avanti, insomma, come interessi, eccetera, eccetera. L'errore è attribuirgli, come dire, un ruolo, oserei dire, taumaturgico su qualsiasi fronte, come se lui avesse fatto personalmente tutto quel, le lingue, la questione delle lingue. È vero, i re normanni arrivarono in Sicilia, non si misero a parlare normanno, diciamo la lingua che parlavano i normanni provenienti dalla Normandia di allora. Decisero di imparare le varie lingue, oltre al latino, amavano anche l'arabo, amavano l'ebraico, eccetera. Non so quanto bene lo parlassero, non si sa neanche qual è la lingua, la prima lingua che ha imparato a parlare Federico II di Svevia. Sembra una domanda banale, ma qual è? Il tedesco di allora, il latino? Il dialetto siciliano. Ma no, perché lui è nato con i Galusi. Ma lui le prime parole, no, perché lui ha vissuto a Foligno alla corte del duca di Spoleto che era tedesco, con la moglie di lui che era tedesca, quindi o ha cominciato a parlare dopo che è andato a Palermo, cosa che non credo, oppure le prime parole l'ha dette in tedesco probabilmente. Ma la cosa nuova che volevo dire è che un importante uomo politico, capo dell'impero, scrive in una lingua volgare, cosa che il notaio faceva l'atto in latino e poi metteva sotto due o tre parole in volgare, ma non aveva la dignità in volgare che può dare un imperatore. Sì, noi non ci sono prove certe del fatto che lui materialmente l'abbia. Non ha negato che la traduzione. Sì. Ma lui, ci sono solo due poesie che secondo gli storici sono sicuramente legate a lui. Io voglio dire. No, l'interesse è indubbio, c'è stato e poi, come dire, è stato ereditato dalla scuola toscana e via di questo passo. Non nego che sia stato un innovatore su questo fronte. Abbiamo ancora, magari, ultima domanda? Sì, a uno dei due, la caccio con Bolzano, diciamo con l'importanza che poi comincia a ricoprire Bolzano sulla via tra il nord e il sud dell'Europa, Corradino e quello che avevate accennato, ma quindi si è... Raccontalo tu per essere più bravo. Diciamo, leggermente il processo che prende un po' il volo a Bolzano è leggermente successivo, no? C'è quella famosa fase di Mainardo che subentra in questo vuoto, in questo, che è lasciato anche dall'implosione del progetto Federiciano. Quello che però la ricerca ha messo in luce e che mi sento di confermare è il fatto che la presunta modernità dell'apparato burocratico amministrativo di Federico in Sicilia, e ci sono degli elementi premoderni, chiamiamolo così, una certa feudalizzazione, un apparato burocratico forte, viene ripetuto dai Mainardo nella contea tirolese, e non è chiaro da dove derivi questa spinta, però alcune cose ci fanno pensare che proprio anche la rendicontazione, per esempio, che è un elemento molto terra a terra, no? Diciamo, però è un elemento di una burocrazia premoderna, e abbiamo nel disegno bolzanino tirolese di quel periodo, generazione dopo Federico, possa essere per certi versi frutto dell'esperienza siciliana, no? Che lì poi naufraga, però, no? Purtroppo, no? Cioè, una cosa però, per concludere, vorrei ricordare il fatto che quando c'era ancora Federico, passava per queste lande, nel 1936-37 c'è un processo di una secolarizzazione dei due vescovadi, cioè prende in mano con i suoi impiegati e funzionari, prima Alberto di Chiolo peraltro, poi a Bressanone, Sodegheri del Tito a Trento, un'amministrazione podestarile, e spodesta le chiese, le fa proprie, no? In cassa, cioè, anche in questo lui è molto spietato, no? È un'esperienza che poi viene ripetuta da Menardo solo 40 anni dopo, no? Perciò ci sono questi impianti, cioè possiamo studiare molto bene su Federico, mi sembra, l'uso di una tecnica del potere del duecentesca, sia nel grande regno delle due Sicilie, nel regno del sud, ma anche in quella terra di passaggio che è il Tirolo di quell'epoca, che fa propria queste esperienze, ma poi anche ovviamente tutto il sistema bancario dell'Alta Italia, cioè è proprio un territorio di passaggio, anche se i legami con Federico sono esigui, ma ci sono, no? Ci sono queste tracce di... Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio i nostri ospiti e ringrazio tutti voi, perché siete stato un pubblico veramente molto attento e coinvolgente anche con le domande e le osservazioni. Ringrazio tutti. Per qualunque altra curiosità che non verrà esaurita questa sera, vi invito a tornare in biblioteca, perché abbiamo tantissimi libri e la possibilità anche di recuperarne degli altri. Se qualcuno è interessato, dice qualche copia. Grazie.